Saprosse che Rubino era giunto a Siviglia, a tale oggetto ha mandato Basilio. Avanti sera dovrebbe ritornar. E Susanna? Chissà che la tradita abbia il segreto mio, o se ha parlato li fa sposare la vecchia. Marcellina, è signor! Cosa bramate? Mi pare che siete in collera. Volete qualche cosa? Signor, la vostra sposa ha il sole nei vapori e vi chiede il fiaschetto degli ottori. Prendete! Orme il riporto! No, potete ritenerlo per voi. Per me? Queste non sono male da donne triviali. Un amante che perde il caro sposo sul punto d'ottenerlo. Pagano Margelina con le dote che voi mi prometteste. Chi vi promisi? Quando? Credeva d'averlo inteso. Sì, se voluto avessi intendermi voi stessa.